Storie italiane. I ragazzi con le stelle. Molto tempo fa viveva un imperatore generoso e bello che governava più della metà del mondo. Nel suo regno senza fine viveva la donna più bella, la Ptizza. La Ptizza era la figlia di un pastore. I suoi capelli luminosi e la pelle liscia e morbida la facevano risaltare in tutto il regno. La sua bellezza aveva incantato tutti in città, anche gli uccelli e gli animali e gli alberi. La Ptizza non era solo bella, era anche la donna più gentile. Curava il suo gregge e si prendeva cura di tutti quelli che la circondavano. E non solo di uccelli e altri animali. La bellezza e la generosità di la Ptizza avevano fatto innamorare anche le stelle. Una di queste stelle era Lin. La Ptizza, tu hai un cuore buono. Ti abbiamo osservato dai cieli e siamo incantati dalla tua bellezza e dal tuo cuore. Pertanto, ti ho fatto un regalo. Quale regalo? Una benedizione. Il sesto mese del tuo matrimonio sarai benedetta con due gemelli. Saranno i tuoi bambini con le stelle. Bambini con le stelle? Sì, con una stella luminosa su ciascuna delle loro fronti. Saranno sempre in giro per proteggerti. Le loro stelle saranno la loro armatura. Nessuno sarà in grado di ferirli. Saranno i ragazzi più belli e saggi di questa terra. Detto questo, Lin scomparve nel cielo. Il giorno seguente, mentre la Ptizza stava pascolando il suo gregge di pecore nei campi vicini, sentì alcuni cavalli trottare. Si girò e fu sorpresa nel vedere l'imperatore con alcuni soldati avvicinarsi a lei. Non appena l'imperatore vide la Ptizza, se ne innamorò. Qual è il tuo nome? Il mio nome è la Ptizza. E andò così. L'imperatore scese da cavallo e parlò a lungo con la Ptizza. L'imperatore si innamorò della bella pastorella e le chiese di sposarlo. La Ptizza, anch'essa colpita dall'imperatore, accettò di sposarlo. Ma non sarebbe stato facile. L'imperatore aveva un cortigiano disonesto dal nome di Murek. Murek voleva che sua figlia diventasse l'imperatrice. L'imperatore, inconsapevole delle sue intenzioni, si fidava di lui. Ma come può essere? Questo palazzo ha una tradizione che non può essere infranta. Lei è una pastorella. Se desidera sposarti, deve offrirti qualcosa di prezioso in cambio. Solo allora sarà un matrimonio tra pari. Ma lei è figlia di un pastore. Non è giusto aspettarsi qualcosa di prezioso da lei. Una tradizione è una tradizione, mio imperatore. Ma non ho fatto io queste regole. E come imperatore non devi infrangerle. Ma... Posso parlare? Ho qualcosa di prezioso da offrire. Il sesto mese del mio matrimonio avrò due gemelli con una stella luminosa sulla fronte. Saranno invincibili, proteggeranno per sempre me e questo regno. Lo faranno davvero? E come ci assicuriamo che non stai mentendo? Se questa dovesse essere una bugia, mi rinchiuderete nelle segrete per il resto della mia vita. Che cosa? La Ptizza? No! Perdonami, imperatore. Che si tratti di un'imperatrice o di una pastorella, una parola è una parola. Credo nella mia benedizione e credo in me stessa. L'imperatore accettò esitante. Il matrimonio ebbe luogo il giorno successivo. Il palazzo e l'intero regno si rallegrarono e festeggiarono per giorni. Murek non poté dire una parola per fermarlo, ma era ben lungi dall'accettare la sconfitta di una pastorella. Passarono i mesi e presto sarebbe arrivato il sesto mese. Murek diventava irrequieto ogni giorno di più. Alla fine fece la sua ultima mossa, un complotto contro il suo regno. Vuoi che attacchiamo il tuo regno? perderemo! Shh, lo so, ma non è questo l'importante! Ti ho promesso 2 sacchi d'oro! Una volta che verrai catturato, ti libererò e ti consegnerò la tua ricompensa. Domani è l'ultimo giorno del 6° mese. Devo separare l'imperatore dall'imperatrice! Vai ora! Il giorno dopo, l'imperatore ricevette la notizia che il suo popolo era sotto attacco. Non voleva lasciare la moglie, ma era suo dovere proteggere la sua gente. Devi andare, caro. Starò bene. Naturalmente gli aggressori furono catturati, ma quando l'imperatore tornò di corsa da sua moglie, Murek lo fermò. Oggi è l'ultimo giorno del 6° mese, mio imperatore. Il sole sta per tramontare e tuttavia non c'è traccia dei ragazzi con le stelle. Una parola è una parola, aveva detto. Non mi interessa. Lei non andrà nelle segrete. Capisco. L'imperatrice può rimangiarsi le sue parole, immagino. No, non lo farò. Questo è un complotto contro di me e questo regno. Ma finché la verità non verrà fuori, come promesso, dovrò vivere nelle segrete. Il regno ne fu scioccato. Tutti erano confusi dall'improvviso cambiamento della situazione. Tutti tranne Murek. Quella notte sgattaiolò fuori dal palazzo e si diresse verso il mare. Questa è pura magia! Come siete cresciuti in un giorno? Silenzio ora! A palazzo non sapevano che le benedizioni di Lindsay erano avverate. La stella aveva regalato i gemelli all'imperatrice la sera prima. Murek aveva visto tutto. La ptisa aveva messo i suoi bambini accanto a lei e si era addormentata. E la mattina dopo erano spariti. Murek voleva far sparire quei bambini con le stelle, molto, molto lontano. Aveva già pianificato il loro destino. Mise i 2 bambini in una barca e spinse senza pietà la barca nel vasto mare. Ora mia figlia sarà l'imperatrice e io dominerò metà del mondo! Non lascerò che una pastorella e i suoi bambini con le stelle rovinino il mio piano! La barca navigò per ore e poi incontrò una tempesta. Le onde erano forti e feroci, fecero sobbalzare violentemente la barca, ma i ragazzi risero e si divertirono durante il viaggio. Poi arrivò una grande onda che spinse la barca dentro le acque furiose. Ma invece di affogare, i ragazzi con le stelle si trasformarono in 2 piccoli pesci. Saltarono felicemente dalla barca e nuotarono attraverso la tempesta. Di ritorno al palazzo... Ah, comprendo il tuo dolore, mio imperatore. Ma la gente ti guarda sognante con speranza. Devi pensare a loro. Devi sposarti di nuovo. Murek, io non mi sposerò di nuovo. Oh, solo per il tuo popolo, mio imperatore. Non sono loro che ti hanno mentito. Perché vuoi lasciarli senza un'imperatrice? Non lo so. Se posso, mio imperatore, perché non sposi mia figlia? Lei sa tutto e capirà sicuramente il tuo dolore. Oh, fai quello che vuoi, Murek. Non mi interessa. Senza perdere un solo minuto, Murek organizzò tutto. Il matrimonio si doveva svolgere quella stessa settimana. Passarono alcuni giorni e i pescatori trovarono 2 pesci brillanti e lucenti nella loro rete. Portiamoli all'imperatore? Sì, si sposa oggi. Questo sarà il miglior regalo. No, aspetta! Non uccideteci! Questi pesci parlano? Sì, non siamo pesci normali. Per favore, non ucciderci. Ma cosa volete che facciamo con voi allora? Prendi una grande ciotola e riempila di rugiada fresca. Dopo averci fatto nuotare, mettici sull'erba e lasciaci asciugare. I pescatori fecero quello che gli era stato chiesto. Dopotutto erano pesci parlanti. Dopo la nuotata, i pesci vennero messi sull'erba ad asciugare. Dopo che si furono completamente asciugati, i pesci si trasformarono in ragazzini. Erano così belli con le loro stelle luminose sulla fronte. Chi? Chi siete? Noi siamo i principi, siamo figli del tuo imperatore e dell'imperatrice Laptisa. Oh, sapevo che l'imperatrice non avrebbe mai mentito. Dobbiamo raggiungere il palazzo prima che il matrimonio abbia luogo. Dovete coprire le vostre teste. Non mostrate la stella a nessuno. Vi porteremo a palazzo. Il palazzo era affollato. Tutti attendevano la cerimonia, ma né il popolo né l'imperatore erano felici. Più o meno tutti sappiamo che l'imperatore ha deciso di sposare mia figlia. Ora dovremmo... Aspettate! Aspettate! Chi siete? E come osate interrompere un cortigiano del mio palazzo? Siamo i tuoi figli, padre. I tuoi ragazzi. I ragazzi con le stelle. Cosa? Com'è possibile? Quest'uomo, il tuo cortigiano di fiducia, voleva ucciderci lasciandoci in mare in modo che sua figlia diventasse imperatrice. Voleva governare, ma ha dimenticato che siamo benedetti da una stella e lui non può ucciderci. Murek, questo è vero? Arrestatelo! Oh, figli miei! I miei figli! L'imperatore mandò subito a liberare Laptisa dalle segrete. Lei abbracciò i suoi ragazzi. Lin, la stella, aveva ragione. I ragazzi erano nati dalla bontà e la bontà vince sempre contro il male. L'imperatore e la sua imperatrice Laptisa regnarono per molti anni, così come i ragazzi con le stelle. Fine.